In viaggio con Tommy, alla scoperta dello straordinario perduto di Gianluca Nicoletti. Tommy, lo sai quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film? Fica Tommy! Fa un numero, di un numero, quanti ne abbiamo fatti? 10? No, più. Quanti chilometri? 6 cose? No, più. Guarda dentro, riguarda la camera. Quanti chilometri abbiamo fatto finora per il film? A posto? No, 5.000. Sicuro. Tommy finora ha fatto, in varie riprese, per girare il suo secondo film, Tommy e l'asta dei cervelli ribelli, già 5.000 chilometri. Dillo, ho fatto 5.000 chilometri. Ma non 5.000. 5.000 chilometri. 5.000 nonni. Tommy ha fatto 5.000 chilometri per fare il suo film. Nascere con un padre archeologo è già un segno del destino. A Gianno del Bufalo è toccato essere figlio di Dario del Bufalo, un architetto famoso, un grande specialista in marmi antichi e scultura di pietra antica. Vive con il padre in un castello alla Cecchignola, a Roma, un posto che è stato già dimora dei papi. È appassionato di tassidermia, che sarebbe la tecnica che da sempre, dall'antichità, si usa per imbalsamare trofei di caccia. Gli animali della sua collezione però sono tutti morti per morte naturale, ci tiene a dirlo. Sono morti negli zoo, nelle riserve faunistiche, insomma, non sono quei trofei di animali feroci che i cacciatori una volta attaccavano al muro. Gli oggetti che più lo appassionano sono collocati in delle atmosfere cupe, macabre, da film dell'orrore. Ci sono citazioni da antichi testi di magia, necromanzia, esoterismo, sciamani. Insomma, i pezzi più originali sono quelli che lui ha raccolto viaggiando per il mondo. E li tiene esposti nel suo spazio, Mirabilia, che è la sua Wunderkammer personale, che sta a via San Teodoro a Roma, di fronte al Circo Massimo. Gianno non è molto interessato che la gente entri dentro il suo negozio, che poi non è un negozio. Lui tutto sommato vende a malincuore le sue opere, perché vuole rimanerci sempre attaccato, e questo non può essere che il risultato di un bambino a cui da piccolo il padre, una volta in Egitto: "Ma te stai zitto, Tommy." Dicevo, questo non può essere che il risultato di un bambino a cui la prima volta il padre in Egitto mise in mano la testa di un sacerdote morto. Quella testa mummificata, con ancora i capelli attaccati, è stato l'inizio di una lunga catena di collezionismo che oggi lo porta ad avere di tutto: ossa di sciamano chiuse dentro un sacco, scheletri volanti che sembrano stare ad aspettare il giudizio universale. In particolare ce n'è uno che viene da un ospedale inglese. Lui l'ha preso e l'ha attaccato al soffitto. Ma guarda, Tommy, si deve andare al cesso proprio mentre sto registrando. Tommy, puoi aspettare un attimo? Dicevo, lo scheletro di Gianno del Bufalo è attaccato al soffitto e sembra sorridere, sembra volare, sembra un paracadutista in caduta libera. Hai finito? Sto registrando, lo vedi? Devi stare zitto. Come stai? Zitto. Oh, zitto, bravo. Ah, lui mette l'armatura, quindi... Questo che è, Tommy? Guarda. Cos'è questo? È pace. Vero, un vero elefante. Questo da dove viene l'elefante? Questo l'ho preso in un museo, era morto, era l'elefante più anziano di questo parco naturale che stava in Belgio. Poi morì. Ciao, Tommy. Saluta, Tommy. Vieni qua, sta qua. E niente, lo misero così, lo imbalsamarono per il museo civico del parco naturale. C'è solo la testa rimasta. Solo la testa, c'è il teschio, anche c'è il cranio enorme che però c'ho a casa. E... un teschio elefante. Sì, bellissimo. Vieni a vedere, Tommy. Tommy, vieni qua. Gli elefanti sono le cose più rare che esistono, perché sono quelli che scambiano per ciclopi. Non lo sai che l'elefante, se lo guardi, guardi il teschio elefante, c'ha proprio la nostra conformazione anatomica, mandibola, mascella e poi c'è un buco qui che è quello della proboscide, che sembra, sembra una cavità, un oculare, capito? Quindi piace, lo scambiavano quando li trovavano tanti in Sicilia e in Sardegna, li scambiavano, perché ecco allora Omero che diceva che quando parlava dei giganti e dei... Io farei anche una cosa, Tommy, fermo qui immobile in mezzo alle zanne dell'elefante. Sì, allora andiamo in ordine, come ti immaginavi? Tanto mi fa vedere un po' gli oggetti quasi. Allora, gli oggetti che mettiamo in asta sono questo qui, che è una maschera. Che è steca, che cos'è? No, è africana. Africa. Burkina Faso, che è una maschera, vedi, si indossa da dietro, si metteva la faccia qui e si balla. Sono le maschere degli... E da dove guardano? Degli uomini aquila, non guardano. Ah, ciechi sono. Sì, ciechi. Quindi non guardano e respirano da qui e ciechi come aquila. Vabbè, e poi si sbatteranno. Gli uomini aquila che ballano intorno ai fuochi, è una maschera serale da cerimonia. Ok, poi questo leone si è impagliato. Sì. Aspetta, viene il re leone, guarda. Aspetta, poi abbiamo, avevo messo questo fenicottero che era una cosa che mi sembrava decorativa, quello lì. Ah, che bello, fenicottero rosa. Vedi che bella animale. Questi sono quelli di Alice. Io lo direi che vengono tutti dallo zoo, perché sono tutti animali di riserva, non sono animali. Che nessuno li ha uccisi, ecco, lo zoo. No, appunto, sono animali morti allo zoo. Nel senso, chi li questo è il fenicottero rosa. Fenicottero rosa. Viene dallo zoo. Esatto. Poi ti piace questo? Poi quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, quello che ci fa. Cosa ci fa Alice con lo zoo? Vabbè. Io volevo metterlo questo animale ciclope, perché è una cosa molto molto. Che cos'è questo? Fammi spiegare. Questa capra ciclope, è una capra affetta da ciclopia animale. Come quelle di Chernobyl, che sono già le mutazioni. No, è una cosa che succede, è un caso su 150 milioni. No, la capra ciclope ce la voglio. È troppo, cioè una troppo capra, divertente. Caprettina che nasce, ma è sopravvissuta o è morta la piccola? Morta subito, perché vedi che non gli cresce il naso? Non riescono a respirare? Perché vedi il naso, chiaramente. Questo è un caprettino ciclope. È un caprettino, sì. Il naso va dentro. Quando quindi... è stato? Quando a quanto risale questo? Questa è una cosa dei fine 800, inizi 9 di un medico italiano che operava il reparto patologico della Sapienza. Questo è un teschio con i capelli ancora. Questo è egizio. Proprio egizio, un sacerdote dell'ordine di Iside, sì. Se l'ho comprato in una galleria tanto tempo fa, la Nefer Gallery in Svizzera, e lo trovarono questi archeologi insieme a mio padre durante la missione. Questa pure è la parte dove poggiava, lo vedi che c'è la parte concava dove poggia la testa dietro. Lo straordinario, i capelli tutti conservati. È incredibile. No, ma pure quel pezzo di legno è incredibile, tutte strati, e il fatto che è rimasto 2000 anni chiuso lì con la, vedi, la testa. Questa è una testa rimpicciolita. Dei quadrilegna. Queste sono le mandibole Asmat Papua Guinea, vedi, mandibola umana decorata che veniva data in segno di sposa. Questi sono tutti oggetti fatti, che so, questo è il femore che suona tibetano, sì. Cos'è? Sì, quello è tibetano. Flauto fatto con si il femore. Si chiama kangling. Copri pene, questo è questo è un astuccio penico, sì. Astuccio pe... Ne abbiamo già uno sull'asta, ma è il doppio più lungo. Ah, vedi, è bello, va bene. Un'altra etnia. Sì. Poi... Maschera giapponese, che carina. Questa, bene, quella sì, è originale. Questi cosa sono? Questi bellissimi, sono dei denti di capodoglio, collane. Che venivano indossate tra isole Figi, questo, tra XVI e XVII secolo, quindi molto molto vecchio. Lo vedi che patina? Bella? Diciamo, guarda, quello è uno scheletro volante. Quello. Sì, umano. Così sta lì, vola. Qual c'è un principio che unisce tutti questi oggetti? Ma no, in realtà non... solitamente nei gabinetti di curiosità, nelle Wunderkammer, c'è sempre un fil rouge che unisce tutto, quindi dalla natura si passa alla storia dell'uomo su questo pianeta, insomma tante cose, storia, archeologia. Io no, queste io facce faccio... sono tutte queste facce. Questo è tutto un museo vecchio che stava vicino Lodi di personaggi famosi, tipo il Madame Tussaud di Londra, sai, no? Che cosa sono fatte? Gesto di pitta a mano. Vedi? Napoleone, Seneca, Lorenzo de' Medici, Giovanna d'Arco. Oddio, ci vuole un po' di fantasia. Sì, fatte malino. Fatte però sono belle, però sono di qualità, vedi sono carini, perché sono dipinte. E mettono queste teste. Questo è un fallone gigante di pietra? Questo è un fallone gigante di pietra. Da dove viene questo? Giapponese? Questa è una cosa art nuovo... È recente? Recente, sì, degli anni 20-30. Fate un portaceneri? No, una cosa decorativa. Così. Questi sono bei bastoni da passeggio. Vedi i bastoni da passeggio ottocenteschi inglesi? C'è l'anima dentro? Sì, c'è l'anima. Fammi vedere la spada. La spada che fai così. No, sta attento. No. No. Vedi? Hai visto? Guarda il bastone animato. Sì, dentro c'era... C'è la spadina dentro. Spadino. È per difendersi, diventava una lancia per difendersi. Sì, una spada così. Ti dimenticavi, ti ci appoggiavi, trafiggeva la mano. E poi si nascondeva perché chiaramente era un'arma che non... Con la luce come ce l'hai qua dentro? Vabbè. Allora, non possiamo fare tutta una sequenza. No, a seconda dei posti dove ci mettiamo a parlare e delle cose che vediamo. Io partirei da Tommy davanti all'elefante. Va bene, Tommy? Sì. Perché lui vuole l'elefante. Non facciamo l'ingresso, la cosa così. Ma siamo già, vuoi fare l'ingresso? Ma no, non no, serve, la, siamo già dentro. Ripetiamo sempre lo poi stesso. Poi magari facciamo un po' di dettagli delle cose che ci sono. Ma per me fare le zanne dell'elefante è la cosa più bella. Questo cos'è, questo feticcio manichino? È un niombo, si chiama, cioè, contiene le ossa dello sciamano, le ossa dello sciamano. Ah, un sacco antropomorfo, sì, contiene le ossa dello sciamano. Contiene ossa fasciate da una foglia di bambù, femori, tibie, ome. Ma tu dormi qua vicino a queste parti? No. Ah, ecco, posto. Non ci dormirei qua dentro. Però ci ho dormito più volte. Sì, ci hai dormito? Sì. Tutto bene? Disturbato, tutto bene. Quei bastoni? Sì. Mazze africane molto belle di potere, scettri di potere. Ah, ecco, però il filo conduttore è un po'... Beh, le forze della natura, antropologia... Sì, morte. Linea di connessione fra il mondo degli spiriti e il mondo degli umani. Animali che poi possono essere animali guida, ma quell'orso lì con la... Quello bello, l'orso con la corona. Sì, con la corona, sì. Con beh, la io farei questo giretto qua, va bene? Tommy, andiamo? Sei pronto? Vieni a dire qualcosa, Tommy? Vieni? Vieni qua, mi raccomando. Ah, io! Siediti un po' là, che non ce la faccio più. Siediti. Andiamo a casa? Dove vuoi andare adesso? A mamma. Dalla mamma? Fare che? E più te. Il computer? Ma questo mi serve a me, cioè devo lavorare adesso. Che vuoi te? A pa? C'hai fame? L'iPad? Cioè? No, no, addio. Che vuoi mangiare? Piccoglione che sei, mamma mia. Mi lasci finire? Sì. Grazie. Ormai mi sono abituato a raccogliere i pensieri con il sottofondo sonoro di Tommy, che si sette sempre dietro la mia schiena, non ci faccio più caso, anzi, è come quelli che si mettono la musica per concentrarsi meglio. La mia musica sono i muguli di Tommy. Sono le 18:51. Ecco, questa è l'ora fatale in cui comincia a stancarsi di stare qui con me e vuole andare a mangiare. E quindi mi chiede che ora di andare a fare la cena. Naturalmente non me lo dice direttamente, non me lo dice subito. Me lo fa capire disturbando il mio lavoro, impedendomi di fare quello che sto facendo. Tommy, stai zitto un attimo. Grazie. Ecco, si è zittito un attimo. Ecco, però non posso lamentarmi. Questo, devo dire che è il massimo della trasgressione che mi aspetto da un figlio come Tommy. Il fatto di avere un figlio autistico significa che uno si dimentica, o perlomeno non conosce mai, se è l'unico figlio, quel cotè di preoccupazioni che un genitore di solito ha con un figlio nel momento fatale della crescita. Ecco, io avrò il destino e non riuscirò mai a rimproverare i miei figli. A volte penso che a me piacerebbe avere un figlio discolo. Non ho mai avuto un figlio discolo. I miei figli sono stati sempre perfetti. Tommy, nel suo essere perfettamente autistico. Filippo, il maggiore, nel suo essere perfettamente secchione. Ha sempre studiato tanto, non mi ha mai dato problemi. È sempre stato buono, diligente, anzi, è più saggio di me. A volte lui che mi dice: papà, questo non si fa, questo non si dice, non usare queste parole, papà sei matto a fare questa cosa, papà comportati bene. Ecco, questo lo dice un figlio che ha 24 anni, a me che ne ho 65. Invece chissà perché, uno vorrebbe sempre quello che non ha. E il mio sogno sarebbe stato avere un figlio un po' teppista, non teppista in quanto è vicino all'essere delinquente, un po' scavezzacollo, un figlio che mi porta le note da scuola, un figlio che dice le parolacce, un figlio che fa gli scherzi, un figlio che guarda le donne nude che fanno la doccia dal buco della chiave. Insomma, avrei voluto un figlio come Alvaro Vitali. Infatti, l'ho fatto a cercare. Ho portato Tommy a conoscere Alvaro Vitali. Beh, questa è una cosa fantastica. Per mettere insieme Tommy con Alvaro Vitali significa mettere in collisione due universi che non si incontreranno mai. Pierino, il ragazzino terribile, quello delle parolacce, quello dei rumori molesti, e quello degli scherzi, e quello delle terribili marachelle che vengono raccontate da generazioni attraverso le barzellette che Alvaro Vitali ha incarnato nella sua stessa persona. Alvaro Vitali metterà all'asta il suo cappellino, il cappello da Pierino, quello blu col pompon rosso, e Alvaro Vitali mi racconta la sua vita e comincio a capire perché non poteva che diventare l'emblema assoluto del ragazzo discolo. Ha avuto una fanciullezza, diciamo, problematica. Me ne sono andato perché mia madre, siccome io ero un Pierino, E allora mia madre era molto severa con me, giustamente, per drizzarmi. Eravamo cinque figli, però io ero il più paraculo, ero quello più che gli facevo più danni. Il più piccolo eri? No, io il secondo sono. Gli facevo più danni, per cui... E allora mia madre mi diceva sempre, ti mando in collegio, ti mando in collegio. All'epoca diciamo. No, poi mi ci ha mandato, ti mando in collegio, e allora io prima di, a sei anni, quasi sette diciamo, mi ha mandato in collegio. E dovevo stare in collegio ad Anzio fino a 21 anni. Dovevo studiare, fare, vabbè. Cos'era? Preti? Cos'era? Era il collegio di monache, sì. Madonna! Ma i cappelloni, quelle proprio ad Anzio, erano cattivissime. C'era una suora, Solangela si chiamava, ma erano pure carcerata. Ci sono stato a malapena un anno. Poi cominciavo a fare dispetti per farmi cacciare via. Sapevo come fa per andare via da solo. C'avevamo le scuole fatte, quelle di legno, era fatta di legno, le classi, tutto, era una cosa fatta così, tanto per... E io un giorno sono andato in cucina, ho preso i vicerini, ho dato a fuoco uno straccio, l'ho buttato dentro la classe e ho preso a fuoco. E da lì mi hanno cacciato. Da lì hanno chiamato mia madre, e mia madre dice io... Non so che fa questo, dice signora, noi non lo teniamo più. Sì, ma mio padre, io si faccio l'attore, lo devo a lui, perché era lui un comico. Non basta che si divertiva, diceva barzellette, raccontava fatti, cioè avevo pazzi. Perché io li facevo divertire. Sì, sì, sì. Perché raccontavo le barzellette, io già ho sempre raccontato le barzellette. Per cui raccontavo le barzellette, a loro gli piacevano, si divertivano. E con Fellini c'è stata sempre questa atmosfera, questa cosa. Si bagnava. Sì, sì, ma Fellini era meraviglioso. Guarda, io mi divertivo da morire con lui. Lui era un uomo straordinario, veramente straordinario. E poi c'era un cervello che io non so, forse pensava di più del nostro cervello da Fellini. Perché dici? Perché di un'intelligenza soprannaturale. Ma ti rendi conto? Sapeva i nomi delle comparse, ma ti rendi conto? Lui non aveva sceneggiatura. Non c'aveva niente, non c'aveva foglietto. Non c'aveva niente, c'era un foglietto per le posizioni e basta. Non aveva sceneggiatura. Lui sapeva tutto a memoria. Cioè, il copione ce l'aveva qua, capito? Alvarino, allora senti, tu fai questo e fai quest'altro. Non ti faccio vedere come lo devi fare però, fai così. Io copiavo, vedevo lui come si muoveva, come... e io copiavo. E lui era entusiasta. Ti dicevano i numeri, era questa cosa, no? I numeri sì, quando c'erano quelli che non riuscivano a dire le battute, ok? Di da 1 a 10, conta, da 1 a 10, da 15 a 20, capito? Sapeva i nomi delle comparse, era una cosa straordinaria. Francesco, tu passa mentre Alvaro cammina, tu passa dietro. Andrea, come cazzo fa per io questo? A conoscere le comparse. Ma ti rendi conto? Aiuto! Come si sente male? Oddio mamma, sto male! Che altro casino è combinato per te adesso? Ho bisogno di riposo, commissario, mi dia una licenza! Questa è pure pallida, andiamo a vedere che è successo! Un genere scollacciato, no? Sì. Lei faceva questi film un po' di... Osè, per cui... con noi ci si divertiva, era un amicone, ma è stata sempre un amicone di Vige comunque. Pure adesso ultimamente. Ma la senti te ultimamente? No, poi il periodo di tempo non la sento più, ma prima sì. Ci incontravamo spesso a varie trasmissioni. Andavamo in televisione, c'era sempre pure lei, perché si parlava sempre dei nostri film, per cui c'ero io, c'era lei, c'era. Banfi no, non c'era mai, non so perché. Come ti chiami? Arturo Mazzancolla. Come ti senti? Ah, bene, grazie, lei. Svogliati, tirati giù tu. Con Roman Polanski ho fatto una giornata perché Roman Polanski? Perché Polanski gli piaceva Fellini e lui voleva un attore felliniano e subito il capogruppo dice io ce l'ho, c'ho Alvaro Vitali che ha fatto il film con Fellini, ha fatto una fotografia e io andai e feci una piccola cosa. Pierino? Sì? Io studio. Tu studi e gli studia. Che tempo è? È tempo perso! Allora la storia qual è? Pierino, il papà e la mamma e il nonno vivono in casa, hanno un'osteria. Pierino va a scuola, c'ha la sorella, capito? In un mese gli è incassato solo in Italia, mi pare 8-10 miliardi, capito? In Italia solo ti parlo, Poi in Spagna è il doppio incassato. Secondo voi esistono mammiferi senza denti? Sì. Per esempio? Per esempio mia nonna. Basta! Che ti lasciò fare la lepre nelle corse dei cani. Esatto, per essere rotta la lepre, no? Sì, che è data mangiare i cani, gli dicevo questa per te e questa per me, questa per me e questa per te. Senti. Sì, sì. Quella abbiamo girato a Ponte Marcone. Ah, lì al cine, al cine. Proprio lì abbiamo girato. Là sotto. Questo qual è? Qual è? Che poi vicino per una scuola, questa è una scuola. Sì, quello sì. Stiamo parlando adesso. Sì, sì, sì. Quella è tutta la storia, veramente la storia mia. Pierino porta la pagella per tutti e due, 1-2-1. Sì. La nonna gioca a tutto cazzo. E fa 13. E fa 13. E se fa ristorante. Va al fusco! Col fischio senza? Come col fischio? Così. Il viaggio con Tommy prosegue. Presto una nuova tappa. E nuovi incontri fuori dell'ordinario.